la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 20 di marzo, sono le 16.32 minuti e siamo in diretta con gli studi di Radio 24 di Milano. Anche oggi, come spessissimo capita, la trasmissione viene da una lettera, da una segnalazione di uno di voi che vi presenterò tra poco, e quindi vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it, e per intervenire oggi il numero di telefono è il solito, quello di Radio 24, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Di cosa parliamo oggi, quindi, per decidere se darci un commento diretto? Parliamo di un tema che in questi anni, soprattutto quando eravamo nel pieno della crisi, non si era ancora diffusa l'aspettativa di una ripresa che speriamo forte, vedremo, ricorreva sistematicamente nel dibattito pubblico italiano, cioè quello di tanti che dicevano: ma cosa resto a fare in questo paese? Che dice che cambia, ma in realtà cambia sempre in peggio, le tasse aumentano, l'inefficienza pubblica non si schioda, la corruzione è quella che è, sempre nuove indagini della magistratura a dimostrare che tra politica e affari impropri privati ci sono connivenze estese per ogni dove, miliardi pubblici bruciati, intanto noi paghiamo, anzi noi chiudiamo perché le banche non ci danno credito, perché lo Stato naturalmente non sente ragioni e così via. Allora, questo tema, che è stato un tema ricorrente negli ultimi tempi, è stato per così dire respinto un po' nell'angolo, perché c'è stata una reazione da una parte dello Stato che naturalmente è assetato di gettito, perché è cambiata l'area internazionale nei confronti dei paesi a più bassa fiscalità, si è scatenata una grande offensiva nei loro confronti per così dire mettere al bando quelli che venivano presentati avendo più basse tasse come i paradisi fiscali, e quindi tutta la grande operazione intrapresa dagli americani per primi e poi da grandi paesi europei, che ha partorito i nuovi accordi di cooperazione fiscale con la Svizzera, con il Liechtenstein, con tutta una serie di paesi che hanno per così dire abbassato le penne rispetto al fatto che prima operavano in regime di segreto bancario. Allora, per effetto di tutto questo, in effetti non si parla praticamente più, non è un grande tema quello di italiani, imprenditori, lavoratori dipendenti, disoccupati, insomma di italiani qualunque che dicono: guardate, io mi sono scocciato, me ne vado, perché tanto non ci credo più che qui si cambia a breve, la vita è una, è la mia, e allora vado dove le cose funzionano meglio. Io ho deciso oggi, un po' controcorrente, di tornarci sopra invece, perché ha scritto un ascoltatore che dice: ma io invece l'ho fatto e continuo a essere molto convinto di quello che ho fatto. Stiamo parlando di un ascoltatore che ora vi presento, si chiama Paolo Rebuffo, è un blogger, quindi voi potete leggere le sue considerazioni sull'economia, la finanza, i patrimoni, la gestione patrimoniale eccetera eccetera, andando a leggere quello che posta sul suo blog, che si chiama, a cui collabora, voglio dire, si chiama rischiocalcolato.it, e mi ha scritto dicendo: guarda, io a dire la verità non mi sono pentito di averlo fatto, e vorrei anche approfittare in trasmissione per fare un discorsetto a tutti quelli che forse oggi sono come ieri sfiorati dallo stesso dubbio, dalla stessa tentazione, però non avvertono più quell'aria intorno a sé, come dire, di decisione, e forse quindi non se la sentono poi di farla questa scelta, che invece va fatta, conti alla mano, se uno è nelle condizioni di scommettere su se stesso. E io non ci trovo, io personalmente, in questo caso mi riprendo la parola, non Paolo Rebuffo, assolutamente niente di antipatriottico, perché questa retorica nazionalitarda per la quale bisogna tutti contribuire a comprando i titoli del debito pubblico, bisogna tutti eccetera, non è la mia, nel senso che io credo che queste cose bisognerebbe fare spontaneamente, se A fossero convenienti, B se avessimo uno Stato che funziona, C se non avessimo avuto anche stamattina la dimissione di un ministro perché colpito e travolto da un'indagine che fa vedere che cosa c'è dietro la grande macchina degli interessi impropri privati e pubblici nelle grandi opere pubbliche italiane, dopo il MOSE, dopo l'Expo, dopo la TAV, eccetera eccetera eccetera. Siccome mi pare che la cronaca italiana resti questa, allora ho deciso di fare la trasmissione dando voce a questo ascoltatore. Quindi grazie, e soprattutto chiedendo a voi se ve la sentite, se pensate che sia sbagliato andarsene, se bisogna rimanere qui a oltranza, se nella vostra vita quotidiana avete cambiato idea rispetto alla tentazione che avevate un paio d'anni fa o un anno fa, se quindi questa scommessa sulla fiducia italiana di Renzi è quello che fa la differenza, perché forse ce la facciamo davvero. Qualunque opinione abbiate in merito, se bisogna andarsene o meno, è il giorno giusto, 800 24 00 24. Intanto grazie per la lettera e grazie per la disponibilità a Paolo Rebuffo, che è collegato con noi telefonicamente. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio Oscar, buon pomeriggio. Allora, tu questa scelta quando l'hai presa e perché? Io questa scelta l'ho fatta 3 anni fa a seguito della crisi in cui era caduta l'azienda per cui lavoravo, la Merchant Bank, nel 2012, inizio del 2012. A quel punto dovevo fare una scelta: o accettare un lavoro che mi si era presentato qua in banca, oppure puntare su me stesso e fare consulenza di investimenti indipendente, cosa che in Italia è difficilissima da fare, quasi impossibile. Ma mi sono guardato un attimo intorno, anche con la cartina geografica alla mano, e ho scelto la Svizzera, prima ovviamente informandomi su quelle, su cosa avrei potuto fare, in che termini. Ho trovato veramente un'accoglienza importante. E naturalmente però Paolo, la prima obiezione che viene dal nostro ascoltatore è: vabbè, ho capito, se state parlando di professioni finanziarie è chiaro quando è Svizzera, se uno fa un qualunque altro lavoro è tutto da vedere. No, aspetta Oscar, aspetta un attimo. Qualunque altro lavoro, la Svizzera ha un sistema che ovviamente deve selezionare le persone che entrano per lavorare, perché è un paese piccolo che ha poco spazio, che tende a far mantenere degli stipendi molto alti in modo che ci sia un diffuso benessere, però offre moltissime opportunità anche al di fuori di quello che è il mio campo specifico, tanto è vero che il flusso di italiani che sposta la propria attività, ad esempio campo informatico per dire, nei servizi o anche nell'industria ad alto valore aggiunto, è importante, ed è tanto importante che è diventato il mio primo lavoro. Io mi occupo meno di gestioni patrimoniali e di consulenza di investimenti, e molto di più invece ne aiutare gli italiani che vogliono delocalizzarsi in Svizzera. Quelli che possono farlo, non tutti possono farlo, ma se ci sono le caratteristiche vale veramente la pena. Diciamolo subito per evitare l'accusa che già vedo su un SMS che stiamo facendo naturalmente propaganda a una rete di evasori fiscali. Stiamo parlando di spostare le proprie attività, la propria residenza fiscale, tutto in maniera trasparente, in regola con la legge, perché ragazzi, forse se vi hanno spiegato che chiunque va all'estero è un evasore, diciamo, è una semplificazione da respingere con durezza, si può fare e va fatto tutto nella più totale trasparenza, ma sapendo che lì ci sono regole del gioco e condizioni economiche, fiscali, amministrative, eccetera eccetera, molto diverse e più vantaggiose di quelle italiane, così? Sì, ecco, tu hai detto una cosa prima, hai parlato di paradisi fiscali, è sbagliato, in realtà l'Italia che è un inferno fiscale, è un po' diversa la questione. Direi, sì. È questo il punto, nel senso che la Svizzera ha condizioni fiscali ragionevoli, ha servizi eccellenti in ragione di una pressione fiscale, di una spesa pubblica che sono quasi la metà di quella italiana, eppure tutto funziona in maniera. Allora, quindi iniziamo con un dato, perché la domanda, forse non molti lo sanno, ma noi ricordiamolo: la Svizzera ha un rapporto tra imposte, tributi e PIL che è sostanzialmente in questi anni bloccato intorno al 26,8, 26,7, 26,9% del PIL. Io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che noi abbiamo totale delle entrate pubbliche 2014, documenti ufficiali del MEF, che è ulteriormente salito al 48,1%. Ecco, 48,1% in Italia rispetto al 26,8% in Svizzera. Capite bene che sono quasi 22 punti di PIL in più, 22 punti di PIL, cioè più di un quinto del PIL viene preso dallo Stato in più rispetto alla Svizzera. Come fanno a funzionare le cose bene in Svizzera, i servizi eccetera, quando c'è una differenza di drenaggio pubblico di risorse così rilevante e inferiore in Svizzera? La dimensione dello Stato sostanzialmente, che è molto più piccolo, adeguato, giusto per i servizi che deve dare, non, non c'è neppure il problema di dover licenziare dipendenti pubblici se c'è la necessità, questo non avviene ovviamente normalmente, però c'è una estrema attenzione ai costi e al fatto che tutte le amministrazioni devono più o meno chiudere in pareggio. Quindi e poi c'è un discorso molto particolare, io questa è una mia opinione, ma io sono convinto che uno dei motivi per cui in Svizzera la burocrazia, le leggi funzionano meglio che in tutti gli altri paesi del mondo, per la verità, non solo in Italia, è perché il potere politico dello Stato, no, è limitato fortemente dalla democrazia diretta dei cittadini, che votano veramente su qualsiasi cosa. Io, è una cosa incredibile, uno se non ci va non ci può crederci, ma è veramente, anche sulle tasse votano. Ah, certo, perché da noi abbiamo, io lo sottolineo sempre, abbiamo questo vincolo costituzionale a escludere i referendum, solo quelli abrogativi, perché da noi ci sono solo quelli abrogativi, ovviamente non veniamo interrogati su scelte di fondo prima di leggi come avviene in Svizzera, ma solo referendum abrogativo, ricordiamolo sempre, per Costituzione, e non viene modificata nella revisione costituzionale che ha avuto la prima lettura a Camera e Senato, e naturalmente impedito sulle questioni tributarie, sui trattati internazionali, cioè su tutte le materie sulle quali il legislatore, il costituente italiano, considera gli italiani dei pericolosi bambini, mai affidarsi alle loro scelte, poverini, non saprebbero scegliere, sarebbero scelte demagogiche, lasciamole fare solo al legislatore. Lì invece si vota su tutto, in Svizzera oltretutto c'è una concorrenza fiscale interna all'ordinamento, cioè tra cantone e cantone e tra comune e comune, che si risolve naturalmente in una gara a mantenere la più elevata possibile l'efficienza della spesa pubblica, che significa abbassare la spesa pubblica e abbassare le tasse, in concorrenza piena gli uni con gli altri, cosa che da noi è una concorrenza che avviene solo con le sovraliquote verso l'alto. Lì invece il sistema ha funzionato in maniera tale da verificare che la spesa pubblica diventa più efficiente quanto più è contenuta e quanto più significa imposte basse, perché questo significa attrarre più gente, più imprese, e naturalmente da parte di chi è capace di farlo anche poi rivincere magari le elezioni, ma al ribasso della spesa delle tasse, non al rialzo come funziona da noi. E questo significa però una burocrazia minima. Burocrazia minima significa burocrazia efficiente o una burocrazia che chiude gli occhi di fronte alle cose che non vanno? No, non solo burocrazia super efficiente, veloce, ma votata alla crescita, cioè hanno quelli che potremmo chiamare burocrati, la persona che puoi trovare allo sportello anche per una singola per un singolo certificato che ti serve, ti fa delle consulenze. Se tu hai un problema da risolvere, non te lo devi risolvere tu col tuo commercialista, puoi tranquillamente chiedere e normalmente ti viene data la risposta giusta. Poi magari per cose molto complesse ci vuole comunque un professionista, ma io mi sono trovato veramente sorpreso da questo. Io penso che più che, e oltre alla pressione fiscale, oltre a una magistratura ridicola che abbiamo in Italia, quello che manca agli imprenditori è il supporto da parte della cosa pubblica alla loro attività, o quantomeno che lo Stato si toglie dalle scatole. Allora, un'altra domanda che ti faccio, traendola dagli sms che arrivano, e però la risposta me la dai tra 60 secondi, perché dopo la domanda abbiamo l'interruzione per l'informazione stradale. Alcuni dicono sì, ma naturalmente questo significa una rete sociale pubblica minima, cioè niente aiuti alle famiglie a basso reddito o scuole pubbliche come in Italia, o la sanità come in Italia, che è una delle migliori del mondo, perché con tanta spesa pubblica e meno, questo significherà che naturalmente chi ha minor reddito è lasciato a se stesso. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16:47. Prima reazioni, ma me lo aspettavo, aperte in una forbice, c'è chi dice cambio canale, non voglio sentire queste cose, chi si lamenta sempre dell'Italia, lo capisco, ma io invece cambio canale quando sento solo l'ottimismo sull'Italia, perché mi sembra un po' forzato con i risultati che abbiamo. Dopodiché c'è chi una bella batteria di commenti sul fatto che è un inno naturalmente al darwinismo sociale, perché chi è contro la spesa pubblica è per il darwinismo sociale. Altra obiezione sul fatto che la Svizzera è un paese molto piccolo, inutile fare paragoni quindi con un paese che ha le differenze dell'Italia, benissimo, ma adesso arriveremo anche alle differenze etniche e linguistiche che in Svizzera sono più forti che in Italia, non è che possiamo dimenticarcelo. Dopodiché sto andando a sintetizzare, c'è chi dice parlate anche della Carinzia, quindi questi mi sembrano più interessati alla prospettiva di valutare comparativamente come se andarsene, e per il momento direi sì, la sintesi è più o meno questa. È qualcuno che dice la fila dell'ovvietà, sapere che c'è un paradiso relativo più vicino non significa che sia così facile raggiungerlo, e anche questo è vero. Allora, una risposta, Paolo Rebuffa, su questo aspetto dello stato sociale è molto più debole che in Italia? No, assolutamente, il contrario. Allora, per dare un'idea, qui c'è il sussidio di disoccupazione. E perdi il lavoro, hai l'80% del reddito, e ovviamente però non è che puoi sottrarti alle proposte che l'ufficio del lavoro poi ti fa per trovare un altro lavoro, quindi un sistema che funziona molto bene. Io pago la mia assicurazione privata per la sanità come tutti gli svizzeri che hanno reddito, quindi in realtà la pressione fiscale in Svizzera va aumentata di un 2-4% a seconda del tuo reddito, perché va pagata la cassa malati. Perché ricordiamo, nel servizio sanitario svizzero l'assicurazione privata è obbligatoria. È obbligatoria, ovviamente è obbligatoria se te la puoi permettere, se non te la puoi permettere paga lo Stato, no, perché non è che ti lasciano per strada, perché non vorrei che qualcuno pensasse una cosa di questo genere. Le scuole sono di altissimo livello e molto selettive. Una cosa che mi è stata detta fin da subito quando sono arrivato in Svizzera, che nelle scuole private ci va chi non riesce nella scuola pubblica, sostanzialmente. Cioè, la scuola pubblica svizzera è veramente eccellente. Io veramente non ho trovato nulla fuori posto, e soprattutto una cosa che ho trovato incredibile: io sto a Chiasso, un posto vicinissimo all'Italia, comodissimo per lavorare, perché gli italiani mi picchiano dentro direttamente, dove fare tutta la strada per Lugano. È una cittadina oggettivamente non bella, però ordinatissima, non c'è nessun tipo di problema di sicurezza. Poi a me piace fare sport di sera anche molto tardi, e non posso farlo tranquillamente uscendo senza dover temere nulla. Insomma, non so se è la stessa cosa si può dire in realtà. Allora, qui c'è un SMS che secondo me è azzeccato, perché dice vabbè, ma in realtà la Svizzera funziona bene perché la parte trainante del modello svizzero viene dalla parte settentrionale, cioè dai tedeschi svizzeri, che hanno imposto i loro standard a tutto il resto del paese e anche ai terroni italiani del Ticino. Allora, questo è perfettamente vero, nel senso che sì, questo è vero, non ci interessa, ma questo lo dicono anche i ticinesi. Quando si parla di politica, non è che si parla spesso di politica svizzera, non come in Italia quantomeno, però qualche problemuccio nella parte del Ticino, specie quella più italiana, viene per una gestione un po' allegra delle finanze. Lugano, per esempio, è quasi in dissesto. Però una cosa che ti viene detta è sempre: meno male che a Berna comandano i tedeschi. Ma funziona benissimo questa cosa qua, nel senso che alla fine italiani, francesi e tedeschi lavorano insieme in sinergia, e il potere politico più o meno è in mano ai tedeschi. Bisogna... il problema dell'Italia è che forse i tedeschi hanno imparato a odiarli in questi anni di crisi, perché molti attribuiscono a loro naturalmente la responsabilità di tutto quello che invece abbiamo scelto e fatto male noi negli ultimi 20 anni. E non voglio riaprire il discorso adesso, che abbiamo ancora pochi minuti, ma sentiamo un po' di telefonate che arrivano. Cominciamo con Luigi, che chiama dalla provincia di Varese. Prego, Luigi. Sì, salve, buonasera. Salve. Ho iniziato a lavorare per un'azienda italo-tedesca, l'azienda tedesca per eccellenza, non la nomino ma immaginatela, nel 2012, e nonostante io sia sposato ormai da 20 anni con una donna italo-tedesca, non c'ero mai stato. Ho iniziato a frequentare la Germania nel 2012, e la prima cosa che ho chiesto a mia moglie è perché non mi avesse mai spinto a trasferirci in Germania. Perché? Perché io mi sono immediatamente scontrato con una realtà che è totalmente diversa, non è un po' diversa, è totalmente diversa. Purtroppo però chi va in Germania per l'Oktoberfest o piuttosto per un viaggetto non percepisce le differenze macroscopiche. Ma quando lei dice diversa, significa culturalmente lei preferirebbe essersi oppure no? Culturalmente è molto molto molto diversa, assolutamente. È una questione che è insita addirittura nei bambini, quindi c'è proprio un approccio, voglio dire. dire, nel quotidiano completamente differente. Lei vede i bambini di 5 anni che vanno a scuola con la bicicletta la mattina sul marciapiede, di fianco ci sono le automobili che passano, educatamente col caschetto vanno a scuola. Però Luigi, non credo che sia una questione semplicemente di ordine e disciplina, cioè diciamo c'è una costruzione dal basso di elementi di coesione sociale che poi portano fino all'alto a come si comporta la politica. Cioè la politica in Germania è capace, quando era in ginocchio all'inizio degli anni 2000, in 5 anni di cambiare la faccia sia ai conti della produttività privata a quella pubblica, abbassando di 6 punti di PIL la spesa, le tasse e così via, cioè cosa che l'Italia non è riuscita a fare mai dagli anni 70 in avanti. Sentiamo Luca da Bergamo. Luca, prego. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un imprenditore, ho un'azienda in Italia e una in Polonia. Sì. La vera differenza è la gestione della burocrazia. Là non esistono commercialisti. Mm. Ci sono gli uffici in cui tu vai, chiedi come devono essere pagate le tasse e c'è quella. Non ci sono altre alternative. C'è una soluzione. Io ogni volta invece in Italia, quando mi trovo a dover valutare di come pagare una tassa, dal commercialista ho sempre una risposta: così rischi questo e così rischi quest'altro. Sì. Beh, del resto la nostra normativa tributaria è in perenne evoluzione, ogni settimana con circa 150-160 pagine, in alcune settimane di norme nuove. Ed è assurda questa cosa. Cioè, qualsiasi investitore, anche che tendono, dicono che vogliono portare investitori in Italia. Ma chi ha le palle di venire in Italia a investire? Lo so Luca, però ci dicono che siamo antipatriottardi se ripetiamo questa banale verità, che è quella che conosce chiunque abbia una piccola impresa in Italia. Lei ce l'ha anche fuori, può fare il paragone diretto. Sentiamo Joseph che ci chiama da Bolzano. Prego Joseph. Salve, due cose veloci. Allora, ho sentito il tono di fondo della trasmissione e mi piace molto. Quello che volevo dire, mesi fa ho sentito una trasmissione radiofonica che parlava dei grigioni, sì. E tra le altre cose c'era una ragazza che era ingegnere edile della Brianza che non trovava lavoro in Italia, è andata in Svizzera a lavorare come ingegnere, è andata a lavorare nel tunnel del Gottardo, la costruzione, sì, del tunnel. Allora, il problema è, se io non trovo un lavoro in Italia, a un certo punto devo muovermi, e allora non sono uno che lascia la patria, ma va semplicemente a risolvere i suoi problemi personali. Io sono completamente d'accordo con te, perché è la convenienza delle scelte individuali, secondo me, la vera stella polare da seguire. Però siamo in minoranza, a quanto pare, a pensarla così. Non credo che se chiedessimo agli italiani davvero come la pensano, che ci darebbero torto, ma nella comunicazione pubblica e politica è il senso della collettività che deve prevalere. Io credo che il senso della collettività sia un pretesto per estrarci troppe risorse di tasca rispetto a quello che ci danno e ai ministri che poi si dimettono sotto inchiesta. Allora, la trasmissione finisce oggi, ma appuntamento domani dalle 10 alle 12 per parlare per un'ora del caso Lupi e delle grandi opere pubbliche, e per un'ora delle tasse dei 1000 dirigenti pubblici che continuano a fare dirigenti pur non avendo fatto il concorso. A domani dalle 10 alle 12.